Il terzo anello ad alta voce, I mandarini di Simone de Beauvoir. Henri arrivò dai Dubreuil al Quai Voltaire alle 10. Stettero un po' a parlare del più e del meno, le impressioni di viaggio di Henri, gli ultimi pettegolezzi parigini. Henri, in verità, non si sentiva affatto d'umore combattivo. Era contento di ritrovarsi in quella stanza. Quei libri squinternati ma con dedica, quei quadri dalle firme note che non erano stati acquistati, quei ninnoli esotici che erano tutti dei ricordi di viaggio, tutta quella vita discretamente privilegiata, egli l'apprezzava a distanza e insieme sentiva che il suo vero focolare era lì. Ci si sentiva al caldo, nell'intimità di una vita che era la sua. «Si sta davvero bene da voi», disse ad Anne. «Vero, quando esco mi sento perduta», disse Anne gaiamente. «Sapete», disse Henri a Dubreuil, «la vostra proposta di legare l'espoir all'SRL, ci ho ripensato. Ne ho anche parlato a Luc, ma è assolutamente da escludere». «Spero che non sia la vostra ultima parola, perché senza giornale l'SRL non sarà mai niente. E non ditemi che ce ne sono altri. Nessuno ha esattamente il nostro atteggiamento. Se rifiutate voi, chi accetterà?» «Lo so», disse Henri, «ma rendetevi conto. In questo momento l'espoir è in crisi, come la maggior parte dei giornali. Penso che ne usciremo, ma ancora per molto tempo ci sarà maledettamente difficile pareggiare alla meglio il bilancio. Ora, il giorno che decidessimo di diventare l'organo d'un movimento politico, la tiratura calerà immediatamente e non saremmo in grado di reggere al colpo». «L'SRL non è un partito», disse Dubreuil. «È un movimento abbastanza largo perché i vostri lettori non abbiano da spaventarsene. Partito o movimento è praticamente la stessa cosa. Tutti quegli operai comunisti o comunistizzanti di cui vi parlavo comprano volentieri insieme a L'Humain un giornale di informazione, ma non comprerebbero mai un altro foglio politico. Anche se l'SRL andasse sempre d'amore e d'accordo con il Partito Comunista, la cosa non cambierebbe affatto. L'Espoir diventerà sospetto appena si sarà appiccicato un'etichetta». Henri alzò le spalle. «Il giorno in cui non saremo più letti che dai membri dell'SRL non ci resterà che chiudere bottega». «I membri dell'SRL aumenteranno moltissimo quando avremo l'appoggio d'un giornale», disse Dubreuil. «Ma intanto ci sarebbe un lungo periodo di calo e questo basterà a mandarci a fondo. Non è nell'interesse di nessuno». Dubreuil rifletté un istante e disse con un sospiro: «Ci vorrebbero dei soldi». «Appunto, e noi non ne abbiamo». «Non ne abbiamo», riconobbe Dubreuil dopo un'altra pausa. Certo, non si dava così facilmente per vinto. Rimuginava ancora delle speranze. Ma il colpo era giunto a segno e nella settimana che seguì non tornò più alla carica. Henri, tuttavia, lo rivide spesso. Ci teneva a dimostrargli la sua buona volontà. Si incontrò due volte con Saint-Mazel, assisté alle riunioni del comitato, promise di pubblicare nell'Espoir il manifesto del movimento. «Fai ciò che vuoi», diceva Luc, «purché si resti indipendenti». Si restava indipendenti, era un fatto. Ma bisognava anche sapere che farsene di questa indipendenza. Allora, rimuginando queste idee, arrivò davanti allo scribe, dove Lambert l'aspettava per pranzo. Spingendo la porta a tamburo, si sentì un po' imbarazzato all'idea che avrebbe dovuto parlargli delle sue novelle, ma sperò che Lambert non avrebbe dato molta importanza alla cosa. Lambert gli andò incontro. Henri si decise, tanto valeva liquidare subito la faccenda. «Ti ho riportato le tue novelle», disse sorridendo. «È strano, hai tante esperienze dietro di te, esperienze vissute fortemente, di cui mai spesso parlato così bene. Le tue corrispondenze sono così piene di fatti, di cose, e in queste novelle invece niente di tutto questo. Mi chiedo perché». «Le trovi cattive?» disse Lambert. «Il fatto è che non ci hai messo niente di te». Lambert esitò. «Le cose che mi toccano veramente non sono interessanti per nessuno». Henri sorrise. «Ma quelle di cui parli, si sente che non ti toccano affatto. Si direbbe che tu abbia scritto queste storie come si fa un compito». «Lo sospettavo di non aver disposizione». Sorrideva, ma era un sorriso sforzato. Henri ebbe l'impressione che avesse dato molta importanza a quelle novelle. «Chi ha disposizione? Chi non ne ha? Non si sa bene cosa voglia dire, la disposizione. No, hai avuto torto di scegliere dei temi che t'erano talmente esteriori. La prossima volta impegna maggiormente te stesso». «Non saprei farlo», disse Lambert. Ebbe un riso breve. «Sono il tipo perfetto del povero intellettuale che non arriverà mai a creare niente». Thank you. Lambert guardava ostinatamente il suo piatto, poi disse: «Mi chiedo cosa mai potrò fare una volta che la guerra sarà finita. Non vuoi restare nel giornalismo?» «No, corrispondente di guerra ancora può andare, ma corrispondente di pace non va più per niente», aggiunse con voce animata. «Fare del giornalismo, come ne fai tu, è una cosa che vale la pena, è una vera avventura, ma fare il redattore, anche all'Espoir, non avrebbe un senso che se dovessi guadagnarmi da vivere. D'altra parte, vivere di rendita mi darebbe cattiva coscienza». Esitò. «Mia madre mi ha lasciato troppi soldi. Ho cattiva coscienza in tutti i modi. Mi domando se non dovrei rifiutare quel denaro. Ma che servirebbe?» Esitò ancora. «E poi, confesso che la povertà mi fa paura. Cerca piuttosto di impiegarlo utilmente. È che da un po' di tempo non so più distinguere quello che è bene da quello che è male». «Come sarebbe?» disse Henri. «Ancora un anno fa era chiaro come il giorno. Adesso ci accorgiamo che gli americani sono dei bruti, non meno razzisti dei nazisti, e che se ne strafregano se la gente continua a morire nei campi. I campi pare che ce ne siano anche in Russia di non meno carini, e certi collaborazionisti li fucilano, mentre altri li coprono di fiori». «Se ti indigni vuol dire che ci tieni ancora a certe cose». «No, francamente, quando si comincia con queste domande, niente resiste. Ci sono dei valori che consideriamo certi e indiscutibili. In nome di che? In fondo, perché la libertà? Perché l'uguaglianza? E quale giustizia ha un senso? Perché preferire gli altri a se stessi? Uno che non ha cercato che di godersi la vita, come mio padre, ha poi talmente torto». Guardò Henri con inquietudine. «Ti scandalizzo?» «Niente affatto. Sono domande che ci dobbiamo fare. Sono soprattutto domande a cui dovremmo rispondere». La voce di Lambert si scaldava. «Ci rompono le scatole con la politica. Ma il guaio in politica è che non si torna mai dalla storia all'individuo. Ci si perde nelle generalità e i casi particolari non contano. Per esempio, prendi il problema della colpevolezza. Politicamente, astrattamente, un tizio che ha lavorato con i tedeschi è un porco. Gli si sputa addosso, non c'è nessun problema. Ma poi, se vai a prenderne uno in particolare e lo guardi da vicino, non è più per niente la stessa cosa». «Pensi a tuo padre?» disse Henri. «Sì, è già un pezzo che volevo chiedertelo. Credi che debba veramente ostinarmi a voltargli le spalle?» «L'anno scorso parlavi di lui su un tono tale», disse Henri sorpreso. «Perché allora credevo che avesse denunciato Rosa, e in questo invece non c'entrava affatto. Me ne ha persuaso. Tutti sapevano che era ebrea. No, mio padre ha fatto del collaborazionismo economico e non dico che sia bello. Ma adesso lo trascineranno davanti a un tribunale. Probabilmente lo condanneranno. E all'età sua... Se vuoi riconciliarti con lui, mi pare che niente te lo impedisca, lo interruppe Henri. Credi veramente che posso? Disse Lambert. Ma chi te lo impedisce? Tu non credi che sarebbe una prova di infantilismo? Henri lo guardò sorpreso. Di infantilismo? Lambert arrossì. Voglio dire, di vigliaccheria. Ma no. Vivere secondo i propri sentimenti non è una cosa vile. Sì, hai ragione. Gli scriverò, disse Lambert. Ho fatto bene a parlartene. Immerse il cucchiaio nella colla rosa che tremava nel piatto. Tu potresti talmente aiutarci, mormorò. Non soltanto me. C'è una quantità di giovani che si trovano nel mio stesso caso. Aiutarvi a che cosa? Disse Henri. Tu hai il senso del concreto. Dovresti insegnarci a vivere giorno per giorno. Dovresti mostrarci cosa c'è su questa terra che si possa amare. E potresti anche renderla più abitabile scrivendo bei libri. Mi pare che sia questo il compito della letteratura. Il tuo reportage sul Portogallo, per esempio, va benissimo. Ma ricordo, certe altre pagine tue sulla Sicilia erano d'un tono ben diverso, che dispiace di non ritrovare oggi. Se mai andrai in Portogallo, disse Henri, non ti verrà nessuna voglia di descrivere i melograni in fiore. Vorrei che questa voglia ti rivenisse. Il rimprovero di Lambert gli era andato al cuore. Sì, c'erano ben altre cose da dire sul Portogallo, e solo a malincuore s'era risolto a trascurarle. Un artista, uno scrittore, era questo che voleva essere. Non doveva dimenticarlo. In realtà, riprese, sto appunto scrivendo un romanzo come vorresti tu. Un romanzo affatto gratuito, dove racconto delle storie per il mio solo piacere. Davvero? Disse Lambert. Il suo viso si illuminò. E sei avanti? Sta riuscendo bene? Il principio è sempre un po' difficile, ma sto andando avanti. Ah, sono proprio contento. Sarebbe un tale peccato se ti lasciassi divorare. Non mi lascerò divorare, disse Henri. Una sera Henri si stava annoiando davanti ai suoi fogli quando bussarono forte alla porta dello studio. Si sentì una voce allegra. «Sono Dubreuil, disturbo?» Paul aprì la porta. «È successo qualcosa?» «A chi?» disse Dubreuil sorridendo. «Ho visto la luce, ho pensato che potevo salire, appena mezzanotte. Stavate per andare a letto?» S'era già seduto nella sua poltrona preferita. «Avevo giusto voglia di bere un bicchiere», disse Henri, «e non avrei osato berlo solo. È il mio cattivo angelo che vi porta». «Cognac», disse Paul aprendo il mobile. «Con piacere». Dubreuil si volse a Henri con una faccia soddisfatta. «Vi porto calda calda una notizia che vi interesserà molto». «Ah, e che cosa?» chiese Henri. «Ecco, noi avevamo più o meno rinunciato all'idea di fare dell'Espoir il giornale dell'SRL per via della crisi finanziaria che avrebbe potuto risultarne». «Sì», disse Henri. «Ebbene, ho parlato giusto stasera con un tizio strapieno di soldi che è pronto a sostenerci in caso di bisogno. Avete mai sentito parlare di un certo Trarieux, un grosso fabbricante di scarpe che ha fatto un po' di resistenza? Già, mi pare... Ha una quantità inverosimile di milioni e un'ammirazione senza limiti per Samazel. Questa sera Samazel, m'ha portato da lui, è pronto a finanziare il comizio di giugno e fornirà tutti i capitali necessari se l'Espoir diventa il giornale del movimento». «Non posso dire che la vostra proposta mi entusiasmi», disse Henri. «Se questo tizio finanzia l'Espoir vorrà metterci il naso». «Ah, questo è escluso. Non interverrebbe minimamente nella direzione del giornale. E del resto, parlategli voi stesso, non avete che da chiamarlo al telefono. È pronto a firmare anche domani». Dubreuil aveva parlato con una tale vivacità che Henri sorrise. «Ma aspettate un po', bisogna prima che senta Luc. E poi, anche se ci decidessimo a dichiararci per l'SRL, tenteremmo ugualmente di cavarcela da soli. Preferirei di molto». «Personalmente, sono persuaso che l'Espoir non perderà i propri lettori», disse Dubreuil. «Sono perfettamente d'accordo perché si tenti il colpo senza Trarieux». Esitò. «Ma sarebbe bene che aveste lo stesso una conversazione con lui». «Non mi direbbe niente di più di quello che mi avete detto voi e non ci tengo a farmi offrire questo denaro finché posso farne a meno». «Come vorrete», disse Dubreuil. Lo guardò con aria inquieta. «Ma, ve ne prego, decidetevi presto. Abbiamo già perso tanto tempo». Qualche giorno dopo, la faccia sorridente di Lachaume fece capolino nell'ufficio di Henri. «Puoi accordarmi 5 minuti?» Lachaume passava spesso al giornale per vedere Vincent e quando saliva all'ufficio di Henri era sempre il benvenuto. Ma questa volta Henri disse con voce troppo secca: «Sarebbe meglio domani, ho un articolo da finire». «È che avrei bisogno di parlarti subito», disse Lachaume senza sconcertarsi. Si sedette con decisione. «E di che cosa?» Lachaume lo guardò con una specie di severità. «Mi dice Vincent che l'Espoir si infeuderebbe all'SRL». «Vincent chiacchiera troppo», disse Henri. «Non c'è ancora niente di preciso». «Ah, meglio così. Un movimento come l'SRL è molto equivoco», disse Lachaume con la sua voce posata. «Da una parte attira gente a sinistra, questo è un fatto. Ma dal momento che s'annette un giornale, che organizza un comizio, allora significa che vuol farci lo sgambetto. Al principio il Partito Comunista era favorevole a un'alleanza, ma quando si dichiarano contro di noi, siamo ben costretti a metterci contro di loro». «Vuoi dire che se l'SRL fosse restato un gruppetto modesto, silenzioso, sempre nella vostra ombra e docile ai vostri ordini, l'avreste tollerato e magari incoraggiato, ma che dal momento che si mette a esistere per conto suo la sacra unità non vale più?» «Ti ripeto che cerca di farci lo sgambetto», disse Lachaume, «e che dunque non è più questione d'unità». «Se mi metto con l'SRL», disse Henri, «dirò esattamente le stesse cose di prima, cose che tu approvi. Ma le dirai in nome di una certa fazione e allora prenderanno un altro senso». «Mentre fin qui si poteva supporre che ero d'accordo col Partito Comunista su tutta la linea e questo vi faceva comodo». «Ma è vero che sei d'accordo», disse Lachaume con ardore. «Se ne hai abbastanza di fare l'isolato, il francotiratore, mettiti con noi. L'SRL in ogni modo non ha avvenire. Mai avrà con sé il proletariato. Mentre al Partito Comunista, se parli, hai della gente che ti sta a sentire. Là potresti fare un vero lavoro». «Ma è un lavoro che non mi piace», disse Henri. E pensò irritato: «M'hanno già annesso». Lachaume continuava ad esortarlo, ma avrebbe dovuto rendersi conto che quel genere di storie non serviva certo a farlo avvicinare. Era venuto a consigliare Henri da amico o a manovrarlo? Le due cose probabilmente andavano insieme, ed era questo il più spiacevole. «Perdiamo il nostro tempo», disse bruscamente, «e io devo finire il mio articolo». Si strinsero la mano, piuttosto freddamente. Che importanza aveva che l'Espoir restasse o no indipendente, che avesse più o meno lettori o anche che fallisse? Non vale la pena che mi ostini, pensò bruscamente Henri. E allora, perché non telefonare che accetto? Restò a lungo a fissare il telefono sulla scrivania, ma la sua mano non si decideva. Si rimise al suo articolo. Pronto, Henri? Sono Nadine. Aveva un vero fremito nella voce. Ti sei scordato di me? Guardò l'orologio, sorpreso. Ma no, stavo proprio per scendere. Non è più tardi delle 10:15, no? E 17. Beh, avevo da fare. Riappese con impazienza. Per questo, Nadine era formidabile. Riusciva immancabilmente a guastare i loro incontri. Per tutta questa giornata arida, aveva pensato al momento in cui avrebbe stretto tra le braccia quel corpo liscio e fresco. Avrebbe avuto finalmente la sua parte di primavera. Ed ecco che d'un sol colpo il risentimento cacciava il desiderio. Ancora una che crede di avere dei diritti su di me, si diceva scendendo le scale. Mi basta Paul. Spinse la porta del piccolo caffè. Nadine leggeva con aria calma, bevendo acqua minerale. Allora, non potevi aspettare 20 minuti? Alzò gli occhi. Scusa, non volevo metterti fretta, ma è più forte di me. Appena comincio ad aspettare, mi sembra che non rivedrò mai più la persona che aspetto. Henri ordinò un cognac, accese una sigaretta. Di che cosa volevi chiacchierare? La sua voce non era stata molto amabile, ma Nadine non si lasciò sconcertare. Ho voglia di iscrivermi al Partito Comunista. Iscriviti. Ma tu, che ne dici? Non è così semplice. È per questo che vorrei parlarne con te. Le discussioni non convincono mai nessuno. Però con gli altri discuti, disse Nadine con voce improvvisamente aspra. Con me non vuoi mai. Immagino che sia perché sono una donna. Le donne vi servono solo a schiavazzare. Passo le giornate intere a chiacchierare. Hai l'aria di annoiarti talmente con me. Ma no, non m'annoio. Solo che questa sera mi sento davvero abbrutito. Ti senti sempre abbrutito quando ci vediamo. Beh, perché ci vediamo sempre la sera e sai bene che non ho altro tempo libero. Ci fu un breve silenzio. Poi Nadine disse: Senti, voglio chiederti una cosa, ma naturalmente rifiuterai. Che cosa? Il prossimo weekend. Passalo con me. Ma non posso, disse. Per via di Paul? Precisamente. Ma come può un uomo come te accettare di restare tutta la vita con una donna che non ama più? Ma non ho mai detto che non tenessi più a Paul. Hai pietà di lei e hai dei rimorsi. Tutta questa cucina di sentimenti, che schifo. Quando non fa più piacere di vedere qualcuno, lo si lascia andare, è tutto. In questo caso non bisogna mai chiedere niente a nessuno, disse Henri guardandola con insolenza. E soprattutto non indignarsi quando la risposta è no. Non mi sarei indignata se tu mi avessi detto francamente, invece di parlarmi dei tuoi doveri, che questo weekend non hai voglia di passarlo con me. Henri fece un sorrisetto. Mi mette con le spalle al muro perché le dica il contrario, pensò. Ma questa volta il trucco della franchezza non attacca. Se vuole la verità, l'avrà. Disse a voce alta. Ammettiamo che te lo dica francamente. Non avrai da dirmelo due volte. Prese la borsetta sul tavolo e la chiuse con un colpo secco. Io non sono il tipo sanguisuga, disse. Non m'attacco. E del resto sta pur tranquillo. Non ti amo. S'alzò e fece una piccola risata sforzata. Oh, non fare quella faccia sofferente. T'annoia vedermi e in fondo nemmeno a me mi diverte. Non c'è nessun dramma. Chiacchiereremo quando ci rincontreremo. Ciao. E senza rancore. Sparì nella strada buia e Henri chiese il conto. Non era contento di sé. Perché sono stato così porco con lei? Nadine gli faceva perdere la pazienza, ma le voleva bene. Perdo la pazienza troppo spesso, si disse. Tutto mi dà fastidio. Non c'era da stupirsi del resto. Passava le giornate a far cose che non aveva voglia di fare. Come sono arrivato a questo? I russi stavano saccheggiando Berlino. Non si sapeva se fosse una guerra che finiva o un'altra che stesse cominciando. Come ci si poteva divertire a raccontare storie che non erano mai successe? Alzò le spalle. Anche quello era un pretesto. La notte di Natale s'era promesso di dire in parole le dolcezze della pace, ma questa pace era senza dolcezza. Le strade erano tristi, la carne di Nadine scontrosa. Questa primavera non aveva niente da offrirgli. Il cielo turchino, le gemme degli alberi, obbedivano alla vicenda ordinaria delle stagioni, ma erano senza promesse. Dire il gusto della mia vita?